Benvenuti su The Strano, un podcast di giochi di ruolo nel quale giochiamo a The Strange, un gioco di Bruce Cordere del Monte Cook Games. The Strano è un podcast di sostanza. Mi scuso in anticipo, in questa prima sessione uso in sostanza come se fosse un segno di interpunzione. Prometto, non lo faccio più. Divertitevi! Siete adesso in sostanza nell'estate, nella base operativa dell'estate, in una stanza e uscendo in pratica dalla traduzione ci sono del personale interno che vi chiama e vi dice riposatevi quando volete, ma so che c'è Catherine Manners, la responsabile delle investigazioni, che vuole parlarvi ed è pronta appena potete in riunione. Sì, bisognerà fare rapporto. Ok, riposiamo. Io dovrei stare già in realtà. Bene. Sì. Io sono trattato diversamente, visto che sono una faccia nuova. Arrivi con loro, quindi non sono troppo scioccati, ma per il momento, diciamo, il personale non conosce tutti gli agenti e per il momento non ti notano in quanto estraneo. Come ti traduci sulla Terra? Quando fai una traduzione da una ricorsione all'altra, puoi scegliere quale focus prendere. A cosa assomigli sulla Terra? Io assomiglio a Steel, però più minuto e bruttino come Nel senso, su Rook eri così. Quando ti trasferisci sulla Terra, se posso scegliere essere anche una donna, esatto. Qualsiasi cosa, quindi comunque scegli di assomigliare alla stessa testa che hai su Rook. Sì, esatto. Ok, sì, beh, il mio personaggio ha dei complessi di inferiorità verso l'originale, quindi tende a non cambiare tanto la forma e rimanere più possibile vicino all'originale. Okay. Beh, ti guardano un po' strano perché vedono comunque una certa rassomiglianza fra voi due, quindi non fanno, diciamo, non dicono cose particolari, vi lasciano stare. Ok. Poi io riposo sicuramente. Ok, andate quindi nella parte dell'estate dove ci sono delle stanze a disposizione per riposarsi un po'. Sì, anch'io. Se dovete fare dei tiri di recupero, fateli pure. Solo che a questo punto sto tutto il giorno, cioè mancava quella 10 ore praticamente. Sì, era, in sostanza siete chiamati a riunione per il giorno seguente. Ok, va bene, allora a posto. Sono collato. Ok. Vediamo. Sono a posto. Ci vedo un'immagine per Rook, però va bene, possiamo andare avanti. Quindi chi è che ci stava chiamando? Il capo operativo Catherine Manners e anche Hertzfield, che noi non conosciamo, però sì, riconoscete, sono la tizia con i capelli rossi che è il capo della squadra operativa e l'altro è il capo scienziato dell'estate. Ok. Va bene. Ci presentiamo quindi da loro? Okay. Quindi arrivate nella stanza di riunione e una stanza di riunione piuttosto grandicella, diciamo un 4 metri su 4, e arrivate ci sono le ciambelle del caffè, c'è anche un piccolo cabaret con sopra delle carote, delle cose così. e vedete che ci sono tre persone che stanno mangiando e stanno parlando un po' a bassa voce intorno al tavolo. Due li riconoscete, una è l'operativo capo Catherine Manners, quindi la responsabile delle operazioni operative dell'estate. L'altro è il capo ricercatore Hertzfeld, che avete già incontrato nei laboratori, e la terza è una donna piuttosto alta, con i capelli biondi tagliati un po' corti, e malgrado i suoi jeans neri e un giubbotto lungo piuttosto stiloso, giallo brillante, vedete che ha comunque un fisico e una postura che tradiscono comunque un background piuttosto militare. E Manners si gira e dice: ah, vi stavamo aspettando. E poi vede che, diciamo, RV. E dice: non vi aspettavamo in quattro. Cosa è? Chi è lui? Come glielo hai spiegato? L'abbiamo incontrato. Forse è il caso che prima facevamo un rapporto. Che prima facciamo un rapporto senza RB. Che dite? È relativo. Provare a capire un attimo che è RB, cioè effettivamente. Se l'estate lo sa. E no, come fa a sapere? Non gli porto niente. No, non sanno niente, cioè sono niente tradotto con noi. Io mi faccio avanti e spiego un po'. Riassumo la storia che avevo raccontato a voi ai Capoccia. Quindi gli dici che sei un clone creato dal Carum, che è una delle fazioni su Rook, quella come scopo a distruggere la Terra per cercare di sganciare Rook e rifarlo navigare nello Strange, e che ti avevano creato appunto per cercare di sostituire degli agenti dell'Estate. Ok, vedi che sono leggermente comunque preoccupati da questa informazione. Vedi che confabulano un po' tra di loro e ti chiedono eventualmente, prendono da parte James Corvin e Porter Morgan e vi chiedono: pensate che sia affidabile come soggetto? Parrebbe sì, però non sappiamo che cosa c'è sotto il rito. Per il momento sì, ma per il momento non si potrebbe rivelarsi. Intanto io sto mangiando una quantità anormale di ciambelle. Okay. Soprattutto adesso che torniamo su Rook, che diciamo lui viene da là. Beh, in effetti ci farebbe comodo qualcuno. Ci farebbe comodo qualcuno nativo di Rook per quello che vorrete fare. Notate che non gli avete ancora detto dovevate andare su Rook, ma sembrano essere al corrente che la vostra prossima destinazione potrebbe essere Rook. Poi io mi ricordo dall'angolo estraggo la, se ce l'ho ancora con me, il cipher della bacchetta che può sconfiggere o perlomeno indebolire il come si chiama? Dustman. Mm-hmm. Ah, bravo, e dico Dustman. Questa è la mia credenziale, con questa credo di essere un buon asset per la missione e per l'estate. Per il momento facciamo per il momento puoi restare a ascoltare la riunione, i due operativi garantiscono per te, quindi per il momento puoi restare. Sì, cantiamo noi, tranquilli. Tanto strizzo l'occhio alla bionda. Okay. Non mi prendo responsabilità, però garantisco. Ok, beh, intanto Manners vi presenta la tizia bionda e vi dice: vi presento l'ambasciatore Wentaru. e un consulente per l'estate. E di solito l'abbiamo chiamata quando avevamo bisogno di esperti nel campo dello strange. E potete eventualmente discutere con lei, ma quanto sembra delle informazioni piuttosto utili. Ah, bene, si esponga pure. E vedi che si presenta, mi dice: intanto sono l'ambasciatore Wentaro. Ma è gnocca questa? Non è male, cioè una bella bionda, nel senso è un po', come dire, la postura è un po' quadrata, non è molto sensuale, è un po' militaresca come, però non è male, diciamo. Ha un po' di farsela con tutti gli stivali da militare, insomma. Ha un'apparenza leggermente come dire, leggermente esotica nel visaggio, nel viso. Ok. Prego, prego. Beh, intanto che mangiate, intanto sembrate essere piuttosto affamati, se intanto volete mangiare qualcosa, perché intanto guarda RV che si sta ingozzando con le ciambellone. Sì, mangio anch'io qualcosa. Intanto mentre mangio io ho il senso del... riesco a avvertire, è una ricorso, riesce a traslare questa tizia? Mentre mangiate ve la presentano un pochino di più, c'è Manners, sempre che vi dice: l'ambasciatore Wentaro è basata sullo Strange, abita nella caosfera, e in quello che dice una locazione, un posto che si chiama l'ambasciata di Wentaro. E beh, insieme a lei ci sono svariati sopravvissuti nell'universo che hanno il suo stesso obiettivo, e in questo gruppo si chiama i Templari del Caos. Cercano di annientare le minacce rappresentate dai planetovori. Che purtroppo che mangia i veneti? Sì, sono quelli che distruggono le ricorsioni, sono la minaccia principale per la Terra e per quello che è stato anche creato l'estate. E vedete che abbassa un po' la voce mentre c'è Wentaro che sta parlando con col capo ricercatore, dice: purtroppo anche lei è stata vittima di uno di questi pianotori, e il suo paese natale, il suo mondo natale è stato distrutto da uno di questi pianetovori, e anche per questo una volta che è riuscita a scappare aveva una posizione militare in questo mondo e ha creato questo gruppo per cercare di per snidare e annientare i pericoli relativi ai pianetovori. Ma sono fatti questi pianetovori? Sono degli esseri di un'indescrivibile potenza, la solo loro presenza riesce a inghiottire dei pianeti interi, non hanno una forma specifica, ma sono degli esseri che hanno ottenuto una potenza tale che per nutrirsi inghiottiscono interi pianeti, intere ricorsioni. E come cacchio vanno loro a poter anche minimamente contrastare questi esseri? Beh, cercano di limitare, non attaccandoli frontalmente, cercano di evitare squilibri nello Strange o squilibri particolari nelle ricorsioni, in questo modo da non atterrare l'attenzione dei pianetovori, per esempio. Cioè fanno i vaghi? Piuttosto. Deviare. Sì, insomma. Deviano le attenzioni da altre parti. Esatto. Va bene. Vabbè, questa è una tizia interessante, quindi io, mentre lei mangia, io mi faccio un bel predictive question su di lei. Uh-huh. La osservo, la studio. Allora, che cosa vuoi sapere con predictive question? Nulla, poi dopo quando, tipo, quando ci provo, okay, so come approcciarla. Perfetto. Ok, vedete che la tipa un po' brusca, ma più ferma che brusca, dice: sì, signore, avete terminato adesso, vorrei venire al sodo e spiegarvi perché sono in riunione con voi oggi. Ok. Vi dice: sto seguendo in pratica l'evoluzione del commercio di una droga in particolare, che si chiama la Spiral Dust. E ho scoperto una serie di cose su questa droga. Prima di tutto, sappiate che non è fatta in pratica da cipher spricciolati oppure da uno spirale viola come l'estate stava pensando. O almeno non è fatto in questo modo attraverso un processo che sia stata capace di replicare, quindi è più complicato di quello che pensava eventualmente l'estate. Ho scoperto anche che l'uso dello Spiral Dust può dare in maniera temporanea una creatura normale o anche una creatura che non ha la scintilla, la spark, delle abilità limitate, come se il soggetto fosse quickened. Okay. In realtà, per il periodo nel quale la droga in effetto è in circolo nel metabolismo, la creatura è come se fosse quickened. Vedete Hertzfield che in sostanza fa sì con la testa, annuisce anche lui e dice: sì, in effetti avevamo, dopo svariate analisi, eravamo arrivati alla stessa conclusione. La tizia dice: magari una cosa che non avete scoperto, sapete che la Spiral Dust provoca delle allucinazioni, dei sogni molto molto realistici. In realtà questi sogni sono delle traduzioni parziali. I sogni intensi degli utilizzatori pesanti di questa droga subiscono una traduzione a caso in una ricorsione nel periodo durante il quale stanno dormendo. Però a differenza, come sapete, di voi, il corpo di queste persone che si traducono non sparisce nel nulla, come è il caso per i vostri colpi quando effettuate una traduzione verso un'altra ricorsione. Abbiamo scoperto un'altra cosa, che un overdose risulta in una traduzione a sola andata. L'utilizzatore sparisce perché invece dei suoi sogni, che appariscono in una ricorsione a caso, si traduce interamente e la sua volontà e la sua anima, possiamo dire, è depositata in una misteriosa ricorsione. La natura di questa ricorsione non... Ho cercato di trovarla, ma non sono stato in grado di comprenderlo. Ed è sempre la stessa ricorsione, però, dove spariscono. Sembrerebbe. Ho dei dati piuttosto vaghi sul... Mi sovviene che l'overdose non sia nient'altro che una ricorsione in cui non ci dovevano andare. Cioè, nel senso che è tirare un dado e ti esce una ricorsione sbagliata, e sostanzialmente da quella ricorsione non si può più tornare. Ma probabilmente è sempre la stessa. Un'altra cosa che abbiamo trovato parlando con alcuni di questi utilizzatori su diverse ricorsioni, tra le quali Rook ma anche la Terra, quasi tutti dicono di aver visto nel loro sogno una figura incappucciata che ha di solito degli occhi color zaffiro. Una figura che chiamano il Dustman. Ah, il Dustman, sì. E a quanto sembra questo Dutchman ha la possibilità di controllare i tossicodipendenti, cioè quelli che hanno fatto uso di Spiral Dust, attraverso qualche tipo di connessione psichica. Sì, l'abbiamo visto anche qui all'estate. Ma lui c'entra qualcosa col fatto che non ritornino queste persone quando entrano in overdose? Beh, in realtà quando sono controllati così, in pratica hanno un controllo come se fossero delle marionette dal Dustman, ma una volta che ritornano normali non hanno più memoria di quello che è successo. Però se il Dustman attiva completamente uno di questi tossicodipendenti, in sostanza il tossicodipendente muore e al suo posto uno zombie quickened nasce, e questo zombie ha come intento, in pratica come scopo, di eseguire l'ultimo comando che gli ha dato il Dustman. Come è successo qui, abbiamo avuto a che fare con una cinquantina di queste cose. Ah, ok. E c'era anche il Dustman in mezzo a questi. Sì. Vedete che l'aria è piuttosto interessata. È successo proprio qui all'estate, non più di qualche giorno fa. C'è qualche metodo per interrompere questo collegamento psichico tra il Dustman e i tossici mentre sono sotto l'effetto della dose? Non ho idea, purtroppo. Se sembra un qualche tipo di controllo mentale, quindi magari qualcosa che disturbi il controllo mentale potrebbe essere d'aiuto. Certo. Ok. Ma il Dustman deve essere assolutamente fermato, è troppo pericoloso. Dovrebbe essere su Rook, contiamo di trovarlo e ucciderlo. Ok. Questa è lo scopo principale. Io mi domando ancora come faccio a controllare le persone, però va bene. Deve esserci un collegamento tra la droga che produce e qualche tipo di abilità psichica che probabilmente ha, che gli dà la possibilità di controllare questi drogati. Secondo me la produce questa droga, così poi dopo c'è gente da controllare. La vostra agenzia è in grado di fornirci qualche dispositivo per evitare, sapendo che questo Dustman utilizza dei poteri psichici, magari per evitare che abbia altri poteri psichici che vadano oltre l'uso della droga. Insomma, sto ipotizzando il fatto che ora ci richiamo su Rook e ci potremo trovare in balia di questo psionico. E appunto le sto domandando se avete qualche dispositivo appunto per poter rendersi impermeabili ad attacchi psichici. Dice, no, purtroppo non ho niente... Niente di questo, cioè, niente che possa fare al caso vostro. Una cosa che posso darvi però eventualmente è questo comunicatore. Vedete che tira fuori due spirali che sembrano quasi dei fossili, leggermente spirali, e vi dice: con questo in sostanza possiamo comunicare a qualsiasi distanza. Le ricursioni? Anche tra ricursioni diverse, quindi eventualmente se siete avete bisogno e siete in pericolo, potete comunicare attraverso questo canale e riuscirò a trovarvi e a rintracciarvi, eventualmente aiutarvi. Ah, però questo è buono. Due di questi. Ma sono cipher? Sì, sono dei cipher, quindi si traducono. Ah, e quindi però si usano una volta sola. Sì. Noi abbiamo un'informazione, non so se magari l'abbiamo già fornita, della location in cui potrebbe essere nascosto il Dustman, e magari se riuscite a fornirci qualche planimetria, qualche informazione sulla zona. Quindi pensate che il Dustman sia il fornitore di Dornails eventualmente? Questo è Wentaro che lo chiede. Sì, la deduzione è quella. Sì, o vabbè, diciamo di potrebbe essere, sì. Interessante. Ascoltate, vorrei offrirvi eventualmente la mia consulenza, eventualmente accompagnarvi su Rook e verificare questa voce per vedere se i due sono la stessa persona. Quindi se lo ritenete utile potrei seguirvi su Rook. Un'ultima domanda che provenga dallo spirito o dalle memorie di John Steele. Niente, vorrei sapere se sei un uomo nella tua incarnazione originale, se lei è traslata come donna, è una domanda puramente professionale, se lei è traslata come donna sulla Terra, la sua forma originale... Nello Strange nello Strange sono esattamente come mi vedi. Non sono umana, provengo da un antico pianeta che ormai non esiste più, ma sono sotto questa forma. Ma c'è la divisione tra i sessi in questa specie? Ovviamente è sempre John Steele che sta parlando tramite le sue memorie, attraverso il Revino. Sono l'ultima rimasta della mia specie, quindi ormai non è più importante. Okay. Però vedi che diciamo che l'involucro esterno assomiglia a una donna piuttosto attraente. E con questa ultima informazione utilissima possiamo proseguire. Hertzfeld vi dice eventualmente. Dimmi. Trasliamo subito e chiedo la tipa. O... Beh, Hertzfeld vi dice: guarda, se volete possiamo andare a festeggiare la partnership. Andiamo a farci, non so, qualche birra e mangiare qualcosa insieme, così per festeggiare. Però Wentaro dice: non me la sento di fare qualcosa di così frivolo mentre il Dustman è ancora fuori a piede libero. Pronto a fare le sue macchinazioni. Beh, voi che dico? RV sarebbe propenso ad andare a festeggiare perché è stata, da quando è stato creato ha passato un anno chiuso in un cappellone. Ok, andiamo. Ok, lei si congeda, mi fa un inchino, mi dice: io mi ritiro per il momento, ci troviamo qua appena avrete finito. Ci diamo appuntamento fra... Domani mattina, ok. Ok, con Herzl in sostanza vi porta in una birreria vicino all'estate. Mm-hmm. Che si chiama lo Spritz d'Oro, qualcosa del genere. Dove potete mangiare... Dove siamo? Siete a Seattle. Gli Stati Uniti, Seattle, sì. Quindi piuttosto multiculturale, multietnica, trovate il tipo di ristorante che volete. E in sostanza è l'estate che vi paga la cena per questa volta. Meno male, una volta ogni tanto. E che cazzo. Non mangiamo roba terrestre da un po'. Esatto, dopo selvaggina, coniglio selvaggio, roba del genere che avete mangiato, ma sulla ricorsione fantasy di Arden, adesso potete mangiare tipo sauerkraut se volete, o qualcosa di più americano tipo burger, eccetera eccetera. Sì, certo, okay. Era meglio il coniglio, va bene. Ok. Ma intanto Hertzfeld è piuttosto amichevole come persona, ogni tanto vi fa un po' strano sentirlo parlare, perché diciamo la faccia è da caucasico, classico americano, però la voce è piuttosto con un accento leggermente olianteleggiante, ti parla un pochino così. Ah sì, come non me lo ricordavo questo, sì. Con un accento leggermente giapponese, no, fortemente giapponese, diciamo. Mentre beviamo... Cioè, prima di tutto il personaggio va via di testa perché è la prima volta che sulla Terra, e quindi ha degli atteggiamenti poco consoni a frequentazioni sociali e fa delle cappelle enormi, tipo, boh, non so. No, comunque durante la cena, quando è un po' alticcio, fa qualche domanda riguardo a Rook, a questo personaggio, chiedendogli se ha qualche dritta. Io sono originario di Rook, però appunto avendo passato tutta la mia esistenza in un capannone non è che posso essere un asset molto utile. E chiedo al personaggio se può darci qualche dritta riguardo a Rook. E quindi in realtà tu del gruppo sei quello che conosce un po' meno bene Rook, perché la tua vita in sostanza l'hai passata in un container imprigionato, tra virgolette, e ti dice non so se conosci la storia di Rook, in sostanza è una ricorsione un po' strana, non è stata generata da dal fictional leaking, quindi non è stata generata attraverso delle leggende, sembra che sia stato una specie di nave spaziale o qualcosa del genere, molto molto antiche, molto più antiche della Terra, che navigava nello Strange e a un certo punto, prima ancora dell'avvento degli uomini sulla Terra, si è schiantata e ha trovato un punto di contatto con la Terra, nello Strange, quindi non c'è un contatto vero e proprio attraverso la Terra e Rook. Stando su Rook, anche guardi un pochino lontano nell'orizzonte e se la giornata è limpida o meno, vedi proprio lo Strange oltre il limite, quindi è in pratica una specie di mega astronave, anche se ormai non è più un'astronave perché è talmente vecchia che non ha più una funzione di trasporto, ma in pratica qualcosa che galleggia nello Strange. Quasi tutti su Rook sono stati o geneticamente modificati o hanno delle componenti cybernetiche o qualcosa del genere. Sai anche che Rook è governato delle fazioni che sono un mix tra delle corporazioni, delle religioni e qualcosa del genere, ce ne sono più svariate. Uno è il Karum, quello che ti ha creato, il cui scopo in sostanza è provare in sostanza a far mangiare la terra da un piano Teodoro, per vedere se facendo così in pratica Rook riesce a sganciarsi dalla terra e essere di nuovo libero per potersi muovere nello Strange. In antitesi con loro c'è la Quiet Cabal, quindi la cabala quieta, che è uno degli alleati dello Strange, dell'Estate, in sostanza è più o meno il corrispondente dell'Estate su Rook. Ci sono anche delle mega corporazioni, diciamo, il cui scopo è più o meno fare dei soldi. C'è anche la All Song, è una specie, immaginati un internet all'ennesima potenza, una specie di rete che permea tutto Rook, al quale in pratica ogni abitante di Rook si può connettere se vuole, e attraverso al quale può prendere enormemente un sacco di informazioni. Ah, ecco cos'è questo umbilical che mi riporta nell'equipaggiamento. Esatto, hai una specie di cordone umbilicale che parte da base del tuo cranio e per connetterti con questa All Song. Chiedo se ha qualche informazione della location che è già stata fornita da Donna Elsa. In che parte di Rook è? Allora, guarda un attimo. Tira fuori un computer e inizia a guardare un attimino. Dunque, già arrivate su Harmonious, che è la capitale di Rook, Harmonious Alta, è la città scintillante, in sostanza è una città piuttosto strana, è fatta in due parti, c'è una prima parte nel quale abita la parte diciamo più ricca della città, che galleggia letteralmente su quello che è la città in sostanza dell'ombra, che vive un po' di sotto, una specie di sprawl di parte un pochino più malfamata. Il posto dove dovete andare si chiama Whole Body Graft e occupa i piani superiori della Semerimis Tower. Quindi è una torre immensa, fa più o meno 200 piani più o meno, e nei piani superiori dovrebbe esserci questo Whole Body Graft. Quindi Rook è esageratamente grande, cioè. Non è immensa, è qualche centinaio di chilometri di larghezza. Ok. Per una volta sul posto, in sostanza, dovrebbe essere piuttosto facile trovare informazioni sulla posizione esatta. Pensavo peggio, dai. Rieccomi. Vabbè, l'ulbo di Graf dentro questa torre sta. Sì. Ok, va bene. Perfetto, benissimo. Abbiamo dei contatti su Rook? Possiamo accoppoggiarci? Qualcuno del White Cabal bisognerebbe cercare eventualmente di mettersi in contatto con loro, ma dovreste avere modo di trovare la torre anche senza scomodare la White Cabal. Sì, infatti andiamo alla torre, troviamo il negozio, entriamo dentro il negozio, vediamo chi c'è, ci presentiamo spacchiamo, come? Spacchiamo il culo e poi ce ne andiamo. Non vorrei che succedesse come nel coso, sia nel Coulo che quando siamo andati fuori città per quella missione, perdere più tempo del previsto e dover cercare una sorta di appoggio. Magari potremmo optare per una tattica più soft power, più... Va bene, io porto la vasellina, così rompiamogli il culo con la vasellina ed è più soft. Va bene. Va bene, portiamo un paio di baratti di vasellina allora. Se si traduce, però stavo pensando a quello, come si traduce? Ci vuole un cipher vaselinico, sennò... attenzione, io ho questo, scusatemi. Friction guardate reducing gel. Cosa c'ho nei cipher? Quello. Ah, è quello perfetto, guarda. Fa invece della vaselina. Manco a farlo apposta. Voilà. Va bene. Quindi proviamo? Sì, torniamo alla serata, ci facciamo un riposino, direi. Ok. La mattina dopo, alle 7, Wentaro è già lì pronta in sostanza per la traduzione. Ok. Perfetto. Aspettiamo le mani per la mano e ce lo usiamo. Ok. Iniziate la procedura di traduzione. Iniziate a concentrarvi, vi mettete in uno stato di rilassazione e Porter Morgner, vai pure, tira. C'è con voi anche il Vector, quindi avete diciamo un'equipe completa, attraverso la quale potete fare la traduzione. Ok, proviamo. E c'è anche la tipa che fa asset. Quanto è difficile? Allora, è una difficoltà 4. Complimenti a Rook. Quindi avete comunque a disposizione, vi forniscono una... negli archivi dell'estate vi forniscono una specie di pezzo di Rook attraverso il quale potete fare la traduzione in sostanza. Quindi a difficoltà 4... La prima volta non ce la fai, visto che sei la nostra affascinante accompagnatrice è una veterana delle traslazioni, potrebbe essere lei, no? In questo caso è John Steele, Porter Morgan che l'ha iniziata, ma essendo Porter Morgan un paradox, ha il diritto di ritirare due volte in sostanza. Però conviene che cominci a metterci qualcosa. Ci andiamo a mettere la difficoltà 4, mettiamoci almeno 2 effort, direi. Quindi diventa difficoltà 2. Cioè, che cosa GM intruso? Quello è quando fai uno col dado. Vuoi ritirare il dado spendendo uno dei tuoi XP? Sì, proviamoci, dai. Buttiamo un XP. Intanto guardo quindi la nostra accompagnatrice che secondo me ci sta guardando come dei dementi. Non mai esatto. No, no, fortunatamente, fortunatamente, aspettate un attimo. Vediamo il dado, difficoltà 4. Quindi visto che spendi il PX, l'effort che già hai già applicato continua a applicarsi. Ma guardate che roba, ho fatto 2, 4 e un 1 e... Ok. E a questo punto gli dico no, domani. Esatto. Ora non si va da nessuna parte. Tira sulla tabella del fallimento della ricorsione per vedere cosa succede. Un dado da 100. Io non riesco a togliermi l'XP, me lo dia a togliere per favore. Te lo tolgo. Sì, intanto tiro questo dado da 100. Intanto tra le memorie di RV appare la parola tipo questa porta sfiga, questa tipa. Sì, cose simili. Quanto ho fatto peraltro? 76. 76 non è bello. Allora, sei totalmente fuori sincronizzazione. La difficoltà di tutte in pratica di tutte le azioni aspetta. Allora, in realtà riuscite a tradurvi, quindi passate su Rook, vi ritrovate in questa megalopoli un po' scura, ma intorno a voi ci sono un sacco di luci piuttosto in alto, delle torri e delle cose del genere. Vedete che tutto intorno a voi sembra avere uno sfondo di tecnologico, però vi sentite anche molto molto fuori sincronia nella traduzione, quindi da adesso per un'ora tutto quello che fate è due step più difficile. Okay. Mentre vi traducete, vabbè, anche acquisite una serie di informazioni sulla ricorsione. Sapete che Rook opera sotto le leggi della scienza matta e è un posto di estrema biotecnologia e modificazioni corporee. Sapete che Rook è nascosta nell'ombra della Terra ancora da prima che l'umanità si sia evoluta, e viene da un altro posto nell'universo, a quanto sembra scappata da un avvenimento disastroso di qualche tipo. Sapete che su Rook ci sono diverse fazioni che sono in lotta uno contro l'altro, e sapete che ognuna delle fazioni è una specie di misto tra religione, corporazione e governo, tutto messo in uno. Sapete che il vero codice è l'antica conoscenza di Rook, dunque quello che alla base componeva questa specie di strano mix tra un'astronave e un mondo, e la più parte di questo vero codice è stato perso, ma ci sono ancora parecchie persone che stanno cercando di ritrovare questo vero codice per poterlo utilizzare. Sapete che anche la All Song, la canzone completa, è un web comune, una specie di internet di conoscenza e di informazione e di ispirazione che molti in Rook utilizzano. Anche se molti pensano che sia in sostanza un modo di allontanarsi dal vero codice. Quindi arrivate adesso in questa nuova città, piuttosto strana, vi sentite molto molto sfasati. Ok. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Io guardo intorno. Precisamente dove siamo... Allora, arrivate nella lobby, quanto sembra sia una piattaforma all'aria aperta, e vedete che è securizzata da delle specie di enormi cavi sospesa tra delle torri, delle strutture verticali. Vedete che sulla piattaforma è piena di gente, ci sono delle delle persone che attraversano a sinistra e a destra un po' tutto lo spazio, ma anche se chiamarle persone potrebbe quasi sembrare strano, perché sono in pratica quasi tutti hanno delle evidenti modificazioni corporee, alcune di questi anche piuttosto estreme, tipo una testa quasi non riconoscibile, una specie di cyborg e delle cose del genere. Ah, minchia, un paio di ali con una coda da diavolo non sarebbero male. Vedete che ci sono anche dei corrieri cibernetici, dei mini robot, chiamarli cani non sarebbe giusto, una specie di animale bioingegnerizzato per essere una cosa da compagnia. E vedete che in mezzo alla piazza c'è un old song, in pratica un posto dove attaccarsi all'old song pubblico, e vedete che intorno ci sono parecchie persone, stanno lì con gli occhi chiusi e sembrano essere connessi con gli umbilical direttamente nell'old song. Okay. E proviamola questa old song, è un'esperienza nuova. Vabbè, noi che cosa siamo intanto? Cioè, quello che ti pare. Descrivetemi come vi siete traslati. Cioè, descrivetevi anche voi. Quando arrivate, cominciate a vedervi il corpo. Vedete che Wentaro sembra essere una specie di armatura dorata. Un'armatura però del tipo avveniristico, come una specie di armatura robotica. Ah, la tipa sarebbe? Sì, Wentaro. Ok. Io sono un essere umano classico, ho un vestiario abbastanza robotizzato, cioè nel senso parti meccaniche e quant'altro, ma la cosa più importante è che al mio fianco c'è un piccolo robot. Ok, quindi la descrizione completa del personaggio sarebbe? Corvin è? Più o meno quanto ero in tutte le altre ricorsioni. La frase per descrivere è presente. Ah, ok, certo. Allora, sono un fortunato spinner che costruisce robot. Ok. Gli altri che cosa siete? Guarda, io sono come sempre la stessa cosa, solo che qui su Look. Qui su Rook, i capelli sono completamente biondi, e la barba, e sono tipo, non sono capelli, sono fibre ottiche. Ok. Quindi cambiano colore, si illuminano, e anche la barba questa cosa, è tutto vestito di pelle. Ok, quindi Porter Morgan anche su Rook resta un... Brash Paradox che calcola l'incalcolabile. Ok. Mentre io sono uno strange spinner che spawn. Spawn. Sì. Spawn. Calclone. Sono sempre umano, come ero sulla Terra. Solo che ho dei vestiti orientalizzanti. Più da beduino del deserto. Nero, molto. Molto. Ah, molto laschi. Tu terrorista? Dopo il mio focus vi informa che praticamente ho le unghie delle dita e le unghie e gli occhi hanno una tonalità rossastra. Perfetto. Ok, quindi clone è sostanzialmente il tuo descriptor. Sì, no, io posso spannare un clone, solo che volevo un attimo qualche informazione da LOL Song, perché lo spannerei nudo in mezzo alla piazza. Credo che qui nessuno baderebbe a questa stranezza, però vorrei acquistare del vestiario per Junior, il mio clone. Il clone del clone, in sostanza. Esatto, il clone del clone del clone. Ok. Quindi ci avviamo verso questo dispensore di All Song pubblico. Okay. Sì, ecco, vediamo cosa succede. L'equivalente della cabina telefonica, insomma. Sì, è una specie di cyber caffè in realtà pubblico, nel quale in pratica ci sono un componente centrale nel quale in pratica attraverso il quale con una specie di cordone riescono a connettersi direttamente a questa specie di rete internet moderna. C'è un tipo di divanetti da entrare nel caffè, possiamo sì, potete accomodarsi. Questi. Sì, sì, attacco il mio umbilical a questo coso. Ok. Ti attacchi all'umbilical è la prima volta che ti ci connetti ed è un'esperienza piuttosto disorientante. Immagina di avere una serie di immagini che ti arrivano a palla negli occhi, una serie di informazioni, una serie di pop-up pubblicitari che richiamano la tua attenzione con delle sensazioni anche olfattive o d'odore, eccetera, eccetera, tutto che ti salta quasi addosso. No, figo! E all'inizio veramente un'esperienza un po' così sconvolgente, ma dopo un po' inizi lentamente ad abituartici. È un po' difficile all'inizio ritrovarsi nella marea di dati a disposizione, ma senti come che comunque capisci più o meno come funziona. Bello, mi piace, navigo così alla cieca. Ok. Tipo passo da un argomento all'altro. Carica di antivirus che ok. Ma io sono collegato anch'io. Io vorrei, appunto, visto che in questi attimi, vedere se riesco a beccare l'equivalente di Amazon su Rook e ordinarmi e farmi consegnare in questo posto del vestiario per il clone. Allora, se funziona così, lo so. Ci sono una serie di informazioni di questo tipo. Per esempio, allora, se vuoi, c'è un solo problema: che siete in pratica nella parte upper class, nella parte un po' chic del mondo, quindi i prezzi sono un pochino più alti. Prezzi per la consegna, dici? Il prezzo per l'acquisto. Che vado su questa specie di Amazon, dico, guarda, portami qua. Il vestiario che mi arriva è una specie di robottino che mi porta il vestito. Mi sto immaginando così, magari non è così. Sì. Plausibile. Però ti ci vorrebbe tipo una mezz'ora per la consegna prima di avere eventualmente i vestiti. Dico, compari, prima di avventurarci sulla torre potremmo aspettare di che questo effetto straniante che abbiamo addosso ci passi e in questo lasso di tempo possiamo recuperare le energie e cercare qualche informazione sulla come raggiungere la torre e da qui e intanto mi arrivano i vestiti se non avete fretta, altrimenti ci abbiamo. E là. Intanto se vuoi che cosa cercavate come informazioni Porter Morgan per ma guarda, io me la stavo godendo. Okay. Non so, all'inizio non è proprio godimento, diciamo, perché immagina, ti ricordi i siti porno negli anni 90, cioè tipo clicchi su una cosa e c'hai 6 miliardi di pop-up che ti si aprono. Madonna, quindi sei piuttosto bombardato dalle informazioni per il momento, non è un'esperienza molto piacevole per il momento. No, è un ritorno alle origini. Allora un po' se riesci a scaricarti l'estensione a D-Block, che magari ti può servire. No, non mi piace questo ritorno alle origini. Sto lì che mi barca meno alla meglio. Finiranno di aprirsi pop-up prima o poi. In pratica cominci ad avere una sensazione di capisci come funziona. In pratica è come desideri delle informazioni e l'Allsong ti risponde con una serie di di informazioni sensoriali, di tipo testo, audio, visuali, sensazioni e anche odori, quindi. Ah, bello. Ok, niente, mi dopo un pochino, dopo una mezz'oretta, comincio a cercare informazioni anche su questa torre, sul negozio, cose simili. Per ok, fai una prova a difficoltà 1 per sapere dove è la torre. Quindi diventa 3, in realtà. Esatto. Eccola. E ho fatto 6. No, io ormai ho rinunciato, questa è una serata da non fare prove. Comunque, quindi per il momento provi a concentrarti, ma sei talmente sfasato che non funziona. No, vabbè. Okay, cerco un porno, sarà facile trovarlo. Sì, quello di difficoltà in pratica 0, quindi 2 perché sei un pochino sfasato. Certo, ci può stare. E vabbè, niente, non ho idea di dove possa essere, ma chiederò a qualcuno. Per il momento non lo sai. Qualcun altro vuole provare eventualmente a usare il... sapete, nel senso, quando avete fatto l'allenamento, la formazione, uno delle controindicazioni che vi hanno spiegato per la traduzione era questa, appunto, questa sensazione di sfasamento, ma sapete che fra un'ora dovreste essere a posto. Morgan, ma tu non hai qualche abilità come l'uso di computer? Sì. Non potevi applicarla, no? Sono molto bravo. Sì, ma non ci stavo pensando perché stavo... Assalito dai pop-up. Sì, esatto, stavo cazzeggiando e basta. Così alla cieca. C'è una skill particolare che si chiama All Song Navigation, quindi la navigazione dell'All Song, che serve apposta per trovare meglio le informazioni su okay. Rook. Stavo vedendo se avevo... Quindi non possiamo applicare... Control funzionasse, ma no, se no. Per trovare le informazioni specifiche sull'All Song c'è veramente questa abilità a parte, che è tipo navigare su internet, qualcosa del genere. C'è proprio la capacità di distinguere attraverso questa marea di informazioni quella buona, eventualmente. Vabbè, sarebbe una skill, sostanzialmente. Sì, una skill che potreste prendere spendendo dei pixel, in sostanza. Se no potete provare, per il momento non avete asset, ma potete tutti provare a connettervi con l'All Song per vedere cosa succede. Vabbè, eccolo qua, ce l'ho fatta. Ok. Con 19... Perfetto, così riesco anche a ordinarmi il vestitino. Ah, non era per trovare informazioni sul... cercare le informazioni o volevo solo comprare... Scusa, volevi cercare informazioni sul whole body graft o stavi solo facendo la spesa su Amazon? Che non ho capito. No, l'idea era quella di trovare informazioni sulla tower. Visto che c'ho il minore effetto, okay. Il vestitino potrebbe arrivarmi. Sì, trovi intanto anche il vestitino, sì. Il tizio non è nudo. Quindi aspetta, 19... Quanti bit mi viene a costare? Ho 30 denari. 30 con 10 dovresti essere a posto. È la Madonna. Perché sei nella zona la più cara di tutta la ricorsione. Quindi hai trovato tipo del trasporto perché non è tutto compreso, trasporto incluso. No, nel senso non è che lo compro qua il vestito, lo compro nella Cina di Rook. Vabbè, non mi perdo in questi particolari. Vabbè, spendo 10 denari e me lo faccio arrivare. In sostanza aspettiamo. Il tuo clone è vestito meglio di te. Ah, ma volevo andare in bar, perché volevo proprio anche appartarmi per farmelo. Vabbè, comunque, se ci dai le informazioni sulla tower, poi aspettiamo il vestitino. Aspetta, bisogna fare due calcoli, perché col malus che hai di 6 diventerebbe... Aspetta. Dunque, non questo qua... Ok. Scusa, 5 col malus era? Sì, no, stavo contando in pratica quanta difficoltà arrivavi col 19 se avessi un malus di 2. Ah, batte difficoltà 4. 15 difficoltà 4. Ok. Trovi l'informazione che All Body Graft in pratica occupa i 10 livelli superiori della Torre Semerinis, è una delle 20 torri le più grandi in Harmonious. E questa torre ha 200 piani. 201 per essere precisi. E Whole Bodycraft in pratica ha uno showroom pubblico sul più basso dei livelli dei quali è proprietario, quindi che occupano i piani 191-192. E in sostanza come si chiamano in italiano, i tavoli d'operatori sanitari sono al piano 193 e al piano 194 e ricevono solo su appuntamento. La sezione ricerca e sviluppo sono sui livelli sopra quelli diciamo operatori, e sono livello 195 e 196. Le informazioni pubbliche che trovi così solo al song non dice che cosa possa esserci nei livelli tra il 197 e il 200. Ok, bene, bene. Allora, bene. Vi do un'informazione in più perché hai fatto 19. Sai che Whole Bodycraft è associata con la fazione Zal, che è la fazione che è un po' corporativa. Ma sembra sia piuttosto una sussidiaria interamente sotto il controllo di Zal. E come per svariati edifici dello Zal, l'accesso alle aree sicurizzate è garantito solo a quelli che hanno degli anelli con un codaggio per colore, oppure dai visitatori che sono accompagnati dagli impiegati con tali anelli. Gli anelli bianchi sono quelli meno sicuri e rossi, scusate, sono quelli più con livello di credenziale più alto. Bianco è il più basso e rosso è quello più alto. Parecchi degli impiegati della ZAL hanno degli anelli bianchi, non sono molti quelli a avere quelli rossi. Immagino dirigente okay. Bianchi rossi. Entrare nella torre è qualcosa di... Secondo me... arrivare a quei piani, quelli dello showroom, sarà una minchiata, prendi e entri, ma poi per andare tipo alla ricerca e sviluppo, quindi dove stanno i laboratori o agli altri piani di questi, sono inaccessibili, insomma. Ovviamente non faranno la sicurezza i laboratori? No, sicuramente no. Farci tutti i piani mi sembra molto pericoloso, rischioso. No, se c'è io punterei chiaramente ai due piani che ci ha dato di ricerca e sviluppo, per quanto non sappiamo invece, mi pare, tre o quattro piani che cazzo cosa possa esserci, insomma. Vabbè, ma quanti sono i piani bianchi più o meno? Non ho capito, qual è questa cosa dei bianchi? Cos'è bianchi? No, non ho capito. I dipendenti hanno degli anelli bianchi? Sapete che questa è una delle informazioni che hai ottenuto guardando in generale sui complessi di questa corporazione, di questa fazione che si chiama Zal. Spesso hanno degli anelli con dei colori diversi che vanno dal bianco fino al rosso, che garantiscono l'accesso a certe aree. Quelle diciamo per più facile d'accesso sono bianche, quelle rosse, ma questo è di maniera generale. Su tutti gli edifici non è forse esatto. Ci sono delle zone bianche, zone fino al rosso, eccetera, tipo, eccetera. Tipo il piano 7 potrebbe essere bianco, quello 8 rosso, quello 9 di nuovo bianco, per esempio. Sì, e quello che sapete è che comunque c'è uno showroom che è pubblico superiore al 194 fossero rossi, cioè che non si quello poteva accedere. Sì, riservati, non si sa nemmeno cosa c'è. Ma già nel 193 non ci potete andare, perché sono in pratica la parte di sterile dove ci sono i... Ma si può andare su appuntamento. Solo su appuntamento, esatto. Quindi, tipo, devi farti fare un impianto, ti ci portano perché ti devono operare. Se no c'è lo showroom, che sono, prende due piani, il 191 e il 192. Andiamo là. Andiamo al showroom 191-192 e poi ci infiltriamo fin dal 183 in poi. Ok, aspettate di essere risincronizzati o ci andate subito? No, aspettiamo di essere sincronizzati. Volevo chiederti una cosa. Questa cosa degli anelli colorati, no? Ok? È un'informazione che abbiamo, tra virgolette, scoperto, che va a essere valida per questo full body graft o per questa fazione Zal, è così? Per la fazione in generale. Sapete che in generale è organizzata così la sicurezza all'interno dei loro locali. Ok. Ma gli anelli bianchi sono dei passepartout, sono dei sorte di chiavi? Sì, sono delle chiavi, ma sono fatte in sostanza a forma di anello, il tizio ce l'ha sulla mano e quando deve passare da una zona mette l'anello sul lettore. Se ne... Non era chiara questa cosa dell'anello, che in realtà è proprio un bracciale praticamente. Sì, è un anello fisicamente, ma mi immagino come un bracciale, è la stessa cosa. Quanto più o meno hai visto che io sono uno specializzato in robot e marchi ingegni. Quanto sarebbe la difficoltà per riuscire a scassare veramente scassinare questo tipo di serrature? Quanto sono protette queste serrature? Cioè, quanto è difficile poterle superare? Dipende, dovresti averla sotto gli occhi per avere un'idea di più o meno di... Più o meno, cioè, non lo so, sarà comunque, cioè, ipoteticamente qualcosa di... che si trova sul mercato, cioè una sorta di serratura elettronica che comunque si trova sul mercato, comunque si sanno più o meno come sono, o sono delle cose proprio specifiche, appunto qualcosa di... Non è che sia tipo una serratura di casa, ma più o meno così potresti così indovinare che sia tra challenging e formidable, quindi tra 5 e 7 più o meno. Ok, quindi vuol dire qualcosa comunque di proprietario. Sì, qualcosa di piuttosto difficile, diciamo, da fare. Ok. Io potrei entrare, però... O meno disabilitarle, semplicemente utilizzando il mio potere. Però ovviamente è sempre una difficoltà, c'è sempre una difficoltà. Sì, praticamente. Procuriamoci se no qualche... Vediamo che attrezzatura c'è per... da hackeraggio. Che c'è qui? Ci sono computer... Beh sì, c'è tutto quello che volete, però vedete che Wentaro con voi vi suggerisce, potremmo già andare a vedere eventualmente sul campo a cosa assomiglia questa torre, così andare in avanti scoperta e far finta di essere, non so, dei clienti e guardare lo showroom, già giusto per vedere, avere un'idea di cosa ci serverebbe per... Sì, quello sì, cominciamo ad andare... Credo che sia arrivato il robottino con il vestiario. Prima di continuare, senti, questa cosa. Allora, questo robot control. Non credo che io debba fare un check. Non credo. Allora, te lo dico subito. Dunque, controlla robot. 2 o più punti di intelletto. Usi la tua conoscenza di un di comandi da dare ai robot per controllarli, eventualmente per controllare degli strumenti che trasmettono attraverso le loro frequenze. Allora, riesci a controllare sistemi meccanizzati o robot di livello 2 o inferiore, fino a short range? E infatti poi dopo c'è scritto che utilizzo l'effort non per abbassare la difficoltà, ma per aumentare il livello di robot praticamente che posso controllare, di macchine ingegni che posso controllare. Esatto. Se uso due effort invece di due diventa livello 4, ma non devo fare nessun check. Esatto, sì, no, in realtà sì, perché nel Cypher System ogni volta che devi fare un effetto verso una creatura o verso un oggetto che resiste all'effetto devi fare un check. Per esempio, non so, l'effetto è curare uno dei tuoi compagni. È basato su 2 o su 4, cioè su 2 effort. È basato sul livello del nemico, per esempio. Ti faccio anche un esempio. Le porte in questo gioco hanno un livello. Mettiamo livello 4. Se vuoi sfondare la porta, per farlo devi vincere una prova contro il livello 4. Lo stesso principio, è un mostro, una serratura, la serratura avrà un livello, per controllarla devi fare un tiro contro il livello della serratura. Vabbè, questa in sostanza è buona solo per controllare cose a distanza, senza doversi avvicinare troppo. Esatto. Ascoltami, ma tu sei in grado di controllare ascensori, per esempio? Sì, tendenzialmente sì, se sono di 2 livelli o da 2 a 4 lo posso fare, però sempre devo fare il check. Ok, va bene. Mi ci gioco tipo il mondo, però può essere qualcosa di utile. James, non mi ricordo come si chiama il tuo personaggio. James Corby. Sì. Ah, volevo chiederti, ti può servire il robottino qua delle consegne? Puoi farci qualcosa? Ho già il robottino. No, sì, lo so che è già il robottino, ma un robottino delle consegne? Sì, parti di cambio. Cioè, ne ho già alcuni. No, intendo il robottino che è arrivato a consegnarmi il vestito, visto che credo che faccia parte di una corporazione di consegne o meno. Può servirti per approcciare la torre? No. Non lo so, sì, potrebbero essere delle parti, comunque dei pezzi potrebbero sempre essere. Io ne ho già alcuni nell'inventario, però... Niente, mi ero immaginato che riesci tipo a hackerarlo. Sì, potrei. Utilizzarlo per vedere... Posso disabilitare aspetta cosa diceva? Posso disabilitarlo. Cazzo c'ha scritto? Fino a che tengo l'attenzione? Target inactive. Sì. Puoi prendere un controllo attivo per un minuto. Sì. Però ti dura solo un minuto. Chiamiamo un altro dopo, era solo per così. No, lo disabiliterei soltanto, sì, effettivamente. Ah. Per adesso non c'ho ancora quello che controlla proprio i robot. No, ho capito. Ce l'ho, però sono ancora a tier 2, non è che... Va bene, io vado un attimo, vedo se c'è un bagno pubblico e mi apparto un attimo. No, bagni pubblici non ci sono, ma ci trovi un posto fra due enormi torri, un vicolo un pochino più appartato nel quale eventualmente puoi fare le cose con discrezione. Lo faccio e torno al party con Junior, che è vestito come me praticamente. Che non è vestito addirittura meglio di te, perché con i soldi che hai speso lì in sostanza hai preso tipo, non so, Gucci, come, visto che è la sola cosa che si riusciva più o meno a trovare in consegna in questa parte della città. Quindi è vestito abbastanza bene. Ok. Andate verso la torre? Sì. Sì, sì. Okay. Sì, dai, andiamo verso la torre e diamo un attimo un'occhiata su. Quindi passeggiate nella parte di Armonici in questa. O... Come volete voi? Vedete intanto ogni tanto tipo dei siamo noi? Sarà un chilometro più o meno da dove siete voi. Non era troppo lontano. Quindi potete. Eventualmente vedete anche dei taxi volanti passare ogni tanto. Nel cielo. Ah, vediamo. Interessante. Ok. Entriamo allora. Vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare almeno al piano. Ok. Arrivate ai piedi di questa torre. Alzate lo sguardo e non si vede la fine. Sapete che ci sono più di 200 piani e qualcosa di mai visto su terra. È talmente alta, talmente... slanciata che non si vede la fine. Intravedete proprio una puntina di luce tutto in alto, dove ci sono delle luci segnaletiche per evitare che gli oggetti volanti sbattano contro la torre. E vedete che alla base della torre c'è un'entrata pubblica con delle porte automatiche e ci sono quattro ascensori alla base. E vedete che c'è gente che sale e scende in continuazione. Prendete uno degli ascensori e poi... Sì, al piano più in alto. Al piano pubblico. Che momento, ma ci sono quanti piani sono? 200, almeno 200. 201, diciamo, sono. Piano pubblico al 191, 192. Lo showroom del sì. E appaiono per esempio i piani 193 e 194 che dovrebbero essere dove stanno le sale operatorie. Ci sono i pulsanti 193 e 194, quelli delle sale operatorie, per esempio. No, non lo vedete. Sembra che l'ultimo piano accessibile sia il 191. Raggio di manipolazione, io c'ho un cyber che era raggio di manipolazione, che permette mi pare di manipolare la mente di qualcuno. Esattamente come funziona? No, raggio di manipolazione, aspetta che ci guardo. C'era un raggio di manipolazione comunque, sarà... Mi si riesce a trovarlo. Allora, credo sia questo. In sostanza, tiri e su un soggetto a distanza corta, in pratica gli puoi fare eseguire un comando a tua scelta. Ah, fantastico, quindi se troviamo qualcuno con un bracciale rosso possiamo dirgli aprici la porta. Praticamente. Ricordati anche che sei uno spinner, quindi nelle tue abilità, anche senza il cipher, è una serie di cose che puoi fare. Sì, lo so, solo che c'ho soltanto quello che tiene l'attenzione, quello che cancella la memoria, molto buono, ma credo che il raggio di manipolazione comunque non lascia residui di memoria. Dopo il tizio si dimentica o si ricorda ancora? Devo ritrovare, poi te lo dico. Ok, altrimenti vabbè, posso utilizzare tranquillamente senza tante storie, resume memory e basta. Senza tante storie. Devo trovare soltanto qualcuno col bracciale rosso. Poi per quanto dura non si sa, però, comunque, questa manipolazione. Un solo comando fa? In realtà ti ho risposto a cacchio inventandomi la risposta perché non stavo trovando il coso. Appena lo. Va bene così. Era buona come cosa, però. Mi sembrava una buona risposta. Aspetta, se fa un comando solo va bene. Se dura di più, meglio ancora. Però cioè, l'importante è che ci avrò almeno. Manipulation Beam l'ho trovato. Aspetta, allora è un cipher che tiene due posti. E su Rook è un in pratica un trapianto sulla schiena connesso con dei cavi a un guanto. Puoi attivare il cipher un numero totale di volte per giorno uguali a quello del livello del cipher. Poi, nel senso, dopo la prima attivazione conti quante volte ancora puoi usarlo e comunque dopo un giorno si esaurisce. Ogni volta l'utilizzatore può scegliere. Allora, no, non serve. Non era niente a che vedere con la manipolazione mentale. In sostanza, riesci a toccare roba a distanza, a manipolarla come se fossi una specie di potere di telecinesi. In sostanza, ma forse non era lo stesso. Quello era un altro, quello di cinese. Sai che c'era qualcuno di noi altro. Manipulation Beam assomiglia un sacco a raggio della manipolazione, quello lì. Ok. No, quindi era telecinetico, scusami. Quanto che livello è il cipher? Me lo tocco, tiralo comunque perché mi sa che non l'abbiamo tirato. Un di 6 più 2, tira pure. Scusami, sembra esserci qualcosa su questo pannello in grado di cioè anche se io c'ho, sono autorizzato, come faccio ad andare al piano 195 per esempio? Così dall'esterno non sapresti dirlo, però sembra che veramente l'ultimo punto accessibile sia l'ultimo pubblico, diciamo. Okay. C'è una reception nella hall? Sì. Possiamo parlare con... mi avvicino a... se c'è qualcuno dietro la reception per qualche informazione su... Mm-hmm. Cioè, c'è un tipo vestito piuttosto bene che sembra essere una specie di portinaio moderno. Mi avvicino e chiedo, gli dico che sono qua per un colloquio, per un posto di lavoro come janitor, come addetto delle pulizie per la ZAL. Mi hanno detto che dovrei... deve essere assegnato a parlare con il supervisore al piano 195. Guarda un pochino su un display di vicino e ti dice: prego, vada pure. Al 191 c'è in sostanza lo showroom. Da lì poi c'è un altro ascensore interno che rapporta al 195. Sì. Siccome ho perso il contatto con quelli dell'agenzia itinerale, come si chiama il supervisore delle pulizie della ZAL? Mi dispiace, ma non ne ho idea. Io lavoro qua solo come portinaio, quindi... Ok. In sostanza ci sono 200 piani, quindi su questi 200 piani c'è un po' di tutto, ci sono degli uffici, ci sono dei notari, eccetera eccetera, quindi il tizio è solo così per gestire la torre, non tutta la torre è della ZAL, quindi solo la parte finale sembrerebbe essere. Ho capito, ma se ha qualche contatto con i referenti della ZAL che si occupano delle pulizie, non ce l'ha? Beh, guardi, si sbaglia, non è la ZAL, si chiama Whole Body Graft sulla 192. Ah, sì, sì. Ha qualche contatto da darmi? Ah, no, guardi, sono pagato qua dalle gestori della torre, quindi non ho idea, mi dispiace. Ok, vabbè. Va bene, vado a dare l'informazione come si raggiunge la... Dice, buona fortuna per... buona fortuna per il colloquio, ti dice. Thank you. Andiamo a questa showroom e vediamo questi ascensori interni, che cazzo di... che ci vuole per passare di piano, dai, questi altri ascensori. I robot possono entrare tranquillamente, no, master? Cioè non ci sono... Sì, non c'è nessuno che vi ferma, in sostanza è una torre talmente grande, in pratica uno showroom pubblico nel quale cercano di vendervi in pratica queste modificazioni del corpo. Cioè, quindi è fatta apposta, è pubblico. All'interno della torre, io e il clone cerchiamo di individuare e capire come funziona la gestione delle pulizie. Se c'è un personale umano che svolge questa funzione, e se nell'eventualità in cui ne adocchiassimo uno, di seguirlo. Questo è il piano d'azione che avrei io. Beh, lì alla base non vedete nessuno, nel senso non vedete nessuno che si aggira con carrelli o roba del genere per pulire per il momento. Ok. Arriviamo, ma dove siamo? Lo showroom? Per il momento siete al pian terreno, se volete ci sono degli ascensori proprio davanti a voi. Andiamo al 191, dove sta sto showroom, dove possiamo andare. Ok. Intanto Wentaro vi segue, salite su un ascensore e sentite la pressione che in pratica si schizza verso l'altro. Poco meno di un minuto vedete che il display dell'ascensore segna il piano 191, le porte si aprono e vedete davanti a voi c'è uno showroom. Tutto scintillante, pulitissimo, e vedete che davanti a voi ci sono delle dozzine di fantastiche forme umanoidi, ognuna su un piedistallo, e vedete che sono illuminate in pratica da uno spot, da una specie di luce, di raggio di luce brillante. Vedete che le forme sono favolose sia nel loro, quindi, perché sono parecchie, e anche perché sono molto molto elaborate. Alcuni di queste forme includono un uomo con una pelle color lavanda striata, con una muscolatura molto massiccia. Una donna con delle con una pelle a texture bianche e nere, che ha tre braccia e due teste, né le teste né le braccia hanno dei peli, e c'è un altro umanoide piuttosto sottile, con della pelle blu e rossa, con delle ali aperte che coprono parte del soffitto soprastante. E vedete che ci sono dei clienti che così stanno passeggiando, così che stanno guardando in giro i modelli in esposizione. Ce ne sono alcuni che stanno passando, parlando con i venditori, in sostanza. E sentite certi che dicono: mi piacerebbe questa pelle striata così, sarebbe possibile averlo piuttosto in color salmone, perché sa, a me il rosa non piace, dei discorsi del genere. Robe stranissime. Ok, ci guardiamo un po' intorno, e dopodiché ci sono altri ascensori a questo piano, giusto? Piano, sì. Per esempio, per andare al 192, che è sempre un piano, lo showroom, sì, giusto? Sì. Ok. Sì. No, ditemi voi. Vedete, comunque ci sono due, così vedete, in un angolo ci sono due ascensori. Ok. Tutti e due bianchi o rossi? Non sono colorati in modo particolare. Vedete, comunque, anche guardando in giro ci sono delle... ci sono delle porte che sembrerebbero delle porte d'uscita da qualche parte. I venditori hanno delle uniformi? Sono vestiti in modo piuttosto elegante, però business elegante, diciamo. E vedete che ce ne sono più o meno una decina. Sono vestiti con dei vestiti bianchi. Hanno degli anelli sulle dita? Riusciamo... Aspetta, guarda un secondo. Penso di sì. Dovrebbero. Sembrerebbero avere degli anelli bianchi. In questo piano riusciamo a scorgere se c'è una porta, un ufficio, qualcosa. Vedete che ci sono svariate porte su questo piano, e vedete che anche ci sono ci sono 8 Venom Troopers. Due sono alla... vi cerco una foto, ma sembrerebbe essere della, in sostanza, la security. Sono tre all'ingresso principale e due sono vicino agli ascensori. Ok, vabbè, andiamo agli ascensori, quelli all'angolo. Quei due ascensori. Sì, sono lì che ci sono le guardie. Davanti a questi ascensori? Sì. Ma c'è gente che entra e esce da questi ascensori? No, in questo caso no. Non, per il momento non c'è nessuno che sta uscendo. The Venom Trooper, immaginatevi una specie di cavalletta totalmente fatta di ferro. E avete un'idea più o meno di cosa sia un... Ok, dicevo che i Venom Troopers, in sostanza, immaginatevi delle specie di cavallette di ferro di forma umanoide, sembrano armati anche. E sono di fianco agli ascensori queste. E questo ascensore. Ok, entriamo, no? Proviamo. Ma mi sa che se quelli... secondo me non ci fanno entrare là dentro. Beh, io posso sempre distoglierli. Però prima che poi rimango giù. Io proverei, giusto per vedere se senza insiste, diciamo. Se proprio... Quanti sono i tizi che fanno la guardia? Allora... Noi siamo tipo in un salone pubblico, non è che possiamo cominciare a fare a botte qui dentro. Vedete che ci sono più o meno una decina di venditori e più 7-8 guardie eccetera eccetera, quindi è grande come showroom e prende un piano intero di una torre, quindi è illuminato con luci artificiali, non con luce diurna. No, con luci artificiali. Potremmo spegnessimo tutte le luci e ci introplassimo dentro. Beh, sempre comunque stanno lì davanti all'ascensore, qualcosa scateneremo, insomma. Io a distanza posso disabilitare, non credo che siano più di due come controllo. Mentre parlate lì in un angolo, vedete che c'è un tizio con un vestito bianco che si avvicina e vi dice: buongiorno signori, posso aiutarvi? Io do un'occhiata a questa modifica e gli faccio vedere tipo una delle modifiche più vicine che ci abbiamo. Io comunque mi difilo, dico non sono con loro, io e il clone ci allontaniamo. Ok. Sì, è piuttosto interessante come modifica, è una di quelle che vendiamo di più in generale in questo periodo. Che tempistiche ci sono per l'operazione e il successivo recupero per questo tipo di intervento? Dipende, cosa vuole? Più una modifica stilistica o un trapianto totale? No, stilistica direi. Beh, dipende in generale dal tipo di servizio. Per esempio offriamo dei servizi di piercing, che è praticamente immediato. Se no, per esempio, per un servizio di handweb, in sostanza, sì, più o meno immediato anche quello. Se no, facciamo servizi di scarificazione, di modifiche per quanto riguarda i denti, scultura facciale, modificazioni per quanto riguarda le unghie, per quanto riguarda dei ritocchi dell'uretra o amputazioni anche se desiderate. In generale non sono delle cose piuttosto veloci, no? Lo facciamo in day hospital in un paio di ore. Perfetto, capisco. Molto molto bene. Se no, non vorrei tenga comunque presente che abbiamo a disposizione anche i trapianti totali di corpo, eventualmente se decidi di andare per qualcosa di più importante. Come dire, beh, la procedura potrebbe essere un pochino, sembra leggermente dolorosa, ma comunque merita il dolore. In sostanza, rimuoviamo la pelle esteriore e la rimpiazziamo con una versione migliorata. Per esempio potremmo, non so, impiantarle un carapace se lo ritiene interessante. Ah, bello, bello il carapace. Comunque abbiamo una serie di operazioni di ogni tipo, anche diciamo degli impianti standard, come vuole. Possiamo scegliere eventualmente insieme, se vuole, non so, dei binocoli visuali, o possiamo trapiantare più o meno qualsiasi cosa le venga in mente. I visori sono bene, bene. E grazie, grazie mille. Prego, intanto, se vuole fare un giro a dare un'occhiata ai nostri modelli, vada pure. Grazie, sì, mi aggirerò. C'è un altro piano, giusto? Quanto ne so, un altro piano di showroom. Sì, c'è un secondo piano di showroom. Ah, perfetto. No, in sostanza è lo stesso, in pratica lo vedi, c'è una scala che ti porta a un livello sopraelevato, una specie di mezzanina, nel quale ci sono degli altri modelli. Okay. Ok. Io intanto allontano il mio clone vicino a un altro venditore e più o meno mi faccio dire le stesse cose e dico: sarei interessato a l'implantazione di un carapace? Sì, bello, e quello è piuttosto un whole body graft, cioè un rimpiazzamento totale di corpo, in sostanza. Sì, ma volevo sapere il prezzo e dov'è che effettuate l'operazione. Okay. Beh, è fatto qua in sede, ci sono i nostri chirurghi che operano qua al piano di sopra. Sì. E per quanto riguarda il prezzo, prende più o meno 10 volte il prezzo che quello di un'armatura su Rook. Sì. Quindi in sostanza la procedura consiste nel spellarla, rimuovere la sua pelle e rimpiazzarla con una versione migliorata in forma di carapace. Che non farà male di niente. No, che dici? Poi è una pelle carapace o proprio un guscio? Una pelle dura o proprio un guscio? No, è fatta in sostanza in un materiale apposta. Ma io sto facendo domande così, nello specifico non me ne frega assolutamente niente, sto cercando di capire se riusciamo a organizzare qualcosa per andare nel piano superiore. Ma io domando, ma non sto così, fantasticando, che altre modificazioni mi può presentare? Le spiego, sono un impresario di un piccolo circo che gira un po' tutta Rook, e sono specializzato in freak. Okay. Cosa mi... Beh, dicevo, abbiamo... Se le chiedessi, se le fornissi un dipendente per fare qualche modificazione estrema, non potrei parlare con qualche suo chirurgo? Sì, certo, se eventualmente ha bisogno di... Qualcosa un po' di strano, non so com'è il pubblico al giorno d'oggi. Se magari mi potesse far parlare con qualche chirurgo... Posso farle... No, i chirurghi purtroppo sono occupati a operare, ma posso farle parlare col mio manager? E vedi che punta verso un tizio che è vestito con un vestito bianco con una bordatura rossa. Fai una prova di intelletto a difficoltà 2. Intelletto difficoltà 2. Per parlare col tipo, io c'ho. No, giusto così per guardare. No, perché avrei la. Solo per guardare, perché avrei la. Sì, sì. Un'abilità, una specializzazione come ingannare. No, per il momento è solo per guardare. Solo per guardare. Sì. Aspetta. Vedi, ha solo puntato col dito. No, quindi... Ok. Vedi che gli dici così. Spiriti, no? Vuoi ritirare? Ok. Me lo levi te XP? Riesci? Sì. Ok. Hai fatto 15. Perfetto. Con 15 noti che il tizio che in sostanza ti ha indicato ha un anello rosso al dito. Ho speso alla cazzo questo XP. E va bene, mi avvicino a questo tipo. Poi intanto vedete che il clone si avvicina a un tizio con un vestito bianco e una borsa. No, sono io. Non il clone del clone, solo il clone. Io dico a posto, cosa ne pensi se rubassimo uno di quegli anelli? Che... Il mio piano è quello di convincere sto tipo a... Beh, adesso ci parlo. Salve, come l'avrà accennato il suo dipendente, sarei intenzionato... spiego, sono un piccolo impresario di un circo, e siamo un po' un'impresa artistica parodistica di queste attività ludiche che ci sono sulla Terra, e il nostro divertimento è riproporre spettacoli che riprendono un po' gli spettacoli ambulanti terrestri dell'Ottocento, inizio Novecento, con dei freak. Quindi sto cercando un bravo chirurgo a cui sottoporre un mio dipendente per qualche alterazione estrema. Prenda appuntamento, eventualmente possiamo fare un preventivo di qualche modificazione. Ok, appuntamento, e come faccio a prendere appuntamento? Vedi che schiocca le dita verso un tizio. Scusa? Okay, fai una prova di raggirare. Allora io ti spiego, avrei un malus perché sono strange, però sono specializzato in ingannare, perché sono passato di livello, quindi avrei un più uno. Quindi in sostanza hai una riduzione di uno sul livello, eppure tira difficoltà 4. Però avrei un meno uno dallo strange e un più due dall'ingannare. Io credo. Sono specializzato, quindi difficoltà 4. Tiro 4. Ok. Ti guarda, inizia a sospettare che mi stai facendo un po' perdere di tempo e ti dice, guarda, schiocca le dita verso uno dei tizi. Spendo tre punti di intelletto e gli cancello la memoria. Ok, vai pure. Solo che per farlo devi tirare comunque contro il livello 5. Bastone. Difficoltà 5? Difficoltà 4. 5, sì. 4 era perché avevi il tuo bonus di 1, quindi il livello del tizio è 5 in sostanza. Sì, okay. Sappi che se scazzi se ne accorgi. 17, ok, perfetto. Vedi che là si guarda un attimo in giro e così è un po' confuso e continua a camminare. Quanto gli hai cancellato di memoria, scusa? E gli ho cancellato gli ultimi, aspetta, 5 minuti mi sembra. Sì, 5 minuti. Fino a 5 minuti o 5 minuti? Cancella 5 minuti o fino a 5 minuti? Gli ultimi 5 minuti della sua memoria. Fino a 5 minuti. E fino a 5 minuti? Sì, sì, fino a 5 minuti. Ok, quindi eventualmente se vuoi puoi fargli anche scordare gli ultimi 20 secondi, quello dove gli hai chiesto un appuntamento eventualmente, così non hai a rifare tutto il discorso eventualmente. Solo per spiegarti il potere, non per suggerirti, per dirti eventualmente... No, ho capito. No, appunto, gli cancello la memoria e gli dico, allora siamo d'accordo, l'aspetto giù per il pranzo di lavoro che Per il pranzo di lavoro. Ti guarda strano? Quale pranzo di lavoro, scusi? Quello che mi è appena garantito. Guardi, sono di fretta, l'aspetto giù e firmiamo il contratto. L'aspetto giù al ristorante qua davanti, come mi ha detto. Ok. Secondo, esco. Ok, ti guarda strano come dire, ma che cacchio ho bevuto questo? E ok, intanto esci. Gli altri voi cosa fate? Dopo un po', che siete lì 5 minuti che state parlando, c'è un altro che si avvicina e vi dice: buongiorno signore, posso aiutarvi in qualche modo? No, sono a posto, stavamo decidendo. Ok, eventualmente facciamo dei servizi di piercing che possono essere interessanti, se volete. Ok, ma niente male. Va bene, con chi sto io? È parlato anche l'altro, sta ancora parlando col chirurgo. No, se n'è andato lui, cioè nel senso sta avviandosi verso gli ascensori, stavi andando a Revi? Sì, l'idea è quello, che mando giù il clone al ristorante, mi apposto in modo tale per vedere se sto qua esce o meno, se sta bloccato. Innanzitutto dobbiamo entrare dentro quegli ascensori. Il problema è che non sappiamo che livello di sicurezza c'è poi dentro gli ascensori per portarci al piano che cazzo diciamo noi. Quindi, oltre che entrare là dentro, dobbiamo entrare là dentro attrezzati per poi riuscire ad aggirare questi ascensori. No? Cioè, noi è inutile entrare là dentro e poi dopo magari non ci abbiamo modo di aggirarli. Allora, se ci abbiamo modo, possiamo creare un diversivo, allontaniamo quei due guardie e poi si entra dentro l'ascensore e si perde di aggirarlo, però dobbiamo essere sicuri, insomma, che facciamo tutta questa cosa e poi entriamo e riusciamo a l'ascensore. Ti sentiamo un po' male. Sì, ok, scusate, ecco, adesso mi sentite meglio. Ok, vedete un tour che vi dice, perché non eventualmente non proviamo a... non so, a farsi un impianto, un piercing o qualcosa del genere in modo da avere accesso al secondo piano. Sì. O se no, non lo so, ma anche l'idea di rubare uno degli anelli non sarebbe male, ma dobbiamo fare attenzione perché sembrano abbastanza pesantemente armate le guardie. Sì, ma soprattutto, ma le guardie che anelli c'hanno? Rossi, verdi? Oh, le guardie non hanno anelli, c'è un tizio, ma questo ve lo può dire solo RV eventualmente, quelli con i quali avete parlato, vedete che mentre muovevano le mani avevano degli anelli bianchi. Quindi inutili? Fate una prova di percezione, difficoltà 3. Tutti? No. Tutti tranne RV, perché lui l'ha visto, quindi lo sa già. Beh, ha frittato, no? È riuscita, 19. Quindi ti rendi conto che c'è un tizio vestito di bianco, ma con delle bande rosse. Lui ha un anello rosso al dito. E che sta facendo questo tizio? Vedete che là in sostanza che risponde ogni tanto, chiama dei tizi vestiti di bianco per dirgli vai piuttosto a vedere il signore là se hai bisogno, eccetera eccetera. Sembrerebbe essere un manager di qualche tipo. Ma sei dentro la stanza o è... Sì, è in giro, si muove intorno allo showroom. Ok, andiamo a rubargli quell'anello, dai. Come si fa per rubare l'anello? Benissimo, senti, me lo studio per un attimo, mi studio bene come si muove, a quale dito c'ha l'anello e queste cose qui, me lo studio bene, lo osservo, con predictive question chiaramente. Ok. Ok, benissimo. Ok, poi mi avvicino al tizio. Nel frattempo, mentre lo studio, cerco di capire se qualcuno lo chiama per nome. Senti che ogni tanto qualcuno lo chiama a capo, in sostanza, ma non per nome, diciamo. Okay, va bene. E a questo punto, dopo che me lo sono ben studiato, soprattutto dove porta l'anello, mi avvicino al tizio. Uh-huh. E gli vado incontro come se proprio lo conoscessi, come se fosse, che ne so, un vecchio amico che incontro dopo mesi. Ok. Ciao Fritz, come stai? Vado lì, gli prendo la mano e gliela... Ok, aspetta. Aspetta, aspetta. Prima lo abbraccio, diciamo. RV, dammi un attimino il PX, che sto cercando di fregarti. Porter, lo vuoi un XP? Dammi un XP. E te ne do un altro. E l'altro lo dai a chi? Dove sono una GM intrusione? Ok, lo do a Oblomov. Ok, arrivi lì stringendo per stringergli la mano in modo molto terrestre e ti saluta stile pace e prosperità, qualcosa del genere, la Star Trek, con un saluto di mano che ti sembra molto bizzarro. Ah, saluto di mano, saluto di villano. E non mi dà la mano. Arrivi lì con la mano e ti guarda come dire, che cacchio vuole questo? Non capisce il gesto, qualcosa di alieno per la sua cultura di rucchiano. E tu arrivi lì con la mano e ti guarda come dire. No, gli butto le braccia al collo. Oh, ciao, ma lascia stare queste formalità tra di noi, ma che non ti ricordi? E lo abbraccio. Che ci sono qui su Rook? Ci sono dei college, delle scuole, delle cose? No, è una ricorsione molto piccola, nel senso che fa qualche centinaio di chilometri, ma non ci sono dei college. Non ci sono scuole, cazzi vari. C'è uno sport praticato. E non che tu sappia. Porca il puttana. È arrivato solo la ricorsione. La prima volta che sei in questa ricorsione, sei appena arrivato. Le sole informazioni che sai sono quelle che ti ho detto sulle corporazioni, eccetera. Vabbè, comunque lo abbraccio. Dai, non ti ricordi con quelle due strappone quella volta? Quando ti mandai... sì. Come se avessimo avuto un'avventura tipo un'orgia. Come se avessimo fatto parte di un'orgia a 4-10 persone, cose così. Una cosa anche un po' imbarazzante, in modo che... Tipo, vedi che magari mi costringi ad abbassare la voce, no? No, vedi che ti spinge via, ma come Osman... E vedi che fa segno a due dei robottoni di avvicinarsi. Perfetto. Quando lui mi spinge via, che mi mette le mani addosso, io con un'abile mossa cerco di fottergli l'anello. Però ho predetto prima le sue mosse, le sue azioni, quindi okay, sono quindi in qualche modo agevolato. È un po' più facile di uno. Provare a disabitare i robot, io, il fatto che stanno arrivando così dopo. No, non sono dei robot, sono tipo degli esseri cibernetici, non sono dei veri e propri robot, sono dei Venom Troopers. Voglio disattivare... Ah, ti ho perso. Credo che abbiano un forte malfunzione. Non ho capito, scusa, non ti ho perso. Voglio disattivare le loro parti cibernetiche, in modo da avere un momento... In realtà ti leggo la descrizione. I Venom Trooper sono degli umanoidi che sono sviluppati in grande numero e vengono fatti in provetta, ma sono degli umanoidi bioingegnerizzati, non hanno... Ah, ok, non se fossero... Non sono robot. No. Ok. Ok, provo a sfilargli questo anello. Ok, vai pure, difficoltà e difficoltà 5. Gli faccio un entral invece allora, al tizio. Parlando di prendergli l'attenzione. Ok, vai pure, difficoltà 5. Difficoltà 5. Allora, diventa... visto che... aspetta, fai prima... James Corvin fa prima Entroll, giusto per distrarlo. Okay. Entroll, okay. E metto un edge, un effort. Ok. Allora, int, giusto? Quindi... 5, roll, effort roll 1, asset nessuno, successo. Molto bene. Ok. Non so se do un asset a te poi, te la giro un asset. Esatto, volevo fare in sostanza così. Cos'è la prova? La prova è su speed, giusto? Immagino. Tua esatto. Agilità su speed sarà per su speed, sì, granello, sì. Giusto? Sì. Con Entroll che cosa è? Dico tipo, scusi signore, scusi, quando parlo, sostanzialmente mi deve per forza ascoltare, cioè è totalmente assorbito, non riesce a capire più un cazzo. Te lo distrai praticamente. Ok, perfetto, quindi te lo posso dare come un asset, quindi la difficoltà per te sarebbe porter di 4 e non di 5. 4 ed è su speed, giusto? Su speed, sì. Ok, quindi 4 diventa 3 grazie al mio predictive equation. No, era già... sì, scusa, 3 col tuo predictive equation. Giusto? Esatto. Ok, 3 e... dobbiamo fotterglielo questo anello. Io uso 2 effort su speed, dove non ho edge, quindi consumerò tutto quanto... 5 punti ti costa. Consumerò tutti i 5 punti. L'asset già è calcolato? Già me l'hai dunque, tolto? Beh, il tizio è 5, quindi sì. Comprate Vector Equation, vai a 4, con l'asset vai a 3, e là spendi 2 punti? Sì. Vai a 1. Quindi vado a 1, perfetto, allora tiro direttamente su 1. E vediamo se... Ma attenzione che però quei tiri, ho fatto 5 ragazzi, cioè di culo gli sono riuscito. Se non ti davo l'asset eri morto. Esatto, non c'ero riuscito. Quindi col fatto che lo distrai riesci a prendergli tipo l'anello mentre mentre ti spinge via e adesso c'hai un anello rosso nella mano. Ok, perfetto. Al momento lo tengo nel palmo, nel senso non lo infilo subito, lo metto nel palmo l'anello e via. Okay. E visto che il mio Entroll mi fa fare una cosa molto figa, molto molto figa, te lo link comunque per far condicio. Mi permette anche di fargli credere che ha ancora in possesso un oggetto e sostanzialmente mentre parlo gli faccio capire comunque che l'oggetto è ancora al suo dito, sostanzialmente c'è proprio scritto you can make someone believe that he has something in his possession that he does not have, quindi o viceversa. Ok, per esempio se hai tipo un pezzettino, un anello o qualcosa del genere a disposizione, puoi rimpiazzargli l'anello che gli ha fregato okay, Porter Morgan. Tipo un cerotto. Prendo un bullone dalla mia tasca, visto che ne ho diversi, una rondella o qualcosa del genere. Una rondella, sì. Tipo ti è caduto, tieni. Tanto che crede ancora che sia l'anello in sé per sé, quindi... Cioè no, però se gli fai così dopo se ne accorge, in sostanza una cosa che potresti fare è gli parli bla bla bla, gli togli l'attenzione, gli metti la brugola nel dito mentre gli parli, quindi se non fa molta attenzione la brugola la vedrebbe come l'anello, anzi dopo magari la guarderebbe per sicurezza, però boh sì, allora glielo metto l'anello, però tanto non fa un cazzo tendenzialmente, non è che... Sì sì, è solo così in sostanza per dargli una sensazione di qualcosa intorno al dito al posto dell'anello. Ok. Ok, molto bene. Memory, no? Ti dico. No, anzi. Ok, senti, questo tizio, per esempio, oltre all'anello, c'ha tipo anche un tesserino o qualcosa? Non visibile. Ravi, tu vedi più o meno tutta la storia, nel senso, iniziano a fare un po' di casini, quindi è piuttosto cacciarone. Io intuisco già cosa sta succedendo e mi avvio verso l'ascensore. Ma io potrò farvi... Io poi mi infilo l'anello, diciamo, mentre vado verso l'ascensore posso infilarmi l'anello, ma tipo potrò dire alle guardie loro sono con me? Boh. Proviamo. Ok, io senza altro indugio mi infilo l'anello so, mentre vado verso l'ascensore. Sì. Faccio così. e voi seguitemi, voi statemi vicini e vado verso l'ascensore sicuro, cioè nel senso, anche se ci sono le guardie, io vado lì sicuro e spavaldo come se io potessi entrare, punto e basta. Ok. Vado verso l'ascensore, cerco di entrare, diciamo. Ok, vedi che ci sono dei i droni che ti guardano ma ti lasciano passare. Ok, perfetto. Possono passare anche noi? Sì, faccio, loro sono con me. Perfetto. E entro dentro l'ascensore. Volete un GM intrusion? Sì, ancora, oddio. Ve ne do una di gruppo. Qui ci incula la grande, eh. Ve ne do una di gruppo, visto, se l'accettate, vi dico in sostanza, visto la scena che gli hai fatto prima, il tizio ti teneva un po' sott'occhio, non Jace Corvin, ma Porter Morgan, visto la storia dell'orge e tutto il resto, quindi visto che è responsabile della sicurezza, visto che è responsabile della sicurezza, ti teneva un po' sott'occhio, e là vede che vi dirigete verso l'ascensore. Ma vi nota solo quando entrate dentro l'ascensore, non prima. Ok, che fa niente? Dobbiamo decidere. Esatto. Questa è la descrizione della GM Intrusion, a voi di vedere se volete accettarlo oppure no. C'è andato troppo bene, dai. C'è qualche guardia vicino il... No, ma se l'allarma non troveremo. No, ma lui ha il manager ha una guardia vicino. Non attaccato lui, in sostanza ci sono due guardie lì vicino all'ascensore e ce ne sono altre tre dietro. Ok. No, scusa, un po' più di tre, sono cinque all'ingresso. Se ha una guardia vicino al manager potrei usare un cipher che ho, Raya Meter, praticamente ordinerei una guardia da attaccare al manager, così noi potremmo defilarci. No, non ce n'è, è lì in mezzo alla stanza che sta passeggiando e le guardie sono all'ingresso. No, ma poi in realtà noi ce ne accorgiamo nel momento in cui fai conto si stanno chiudendo chiudendo le porte dell'ascensore, capito? Esattamente. Magari nel momento in cui urlava qualcosa potevo usare il cipher per farlo menare. Esatto, quello anche. No, anche res memory, capito? Quindi accettate l'intrusione o no? E prendiamoci questa intrusione, dai. Un PX a ciascuno. Quindi vedete le porte che si chiudono e attraverso le porte vedi il tizio che alza la testa, ti guarda con aria sorpresa, ti vede in pratica partire nell'ascensore. Ok. Dentro l'ascensore. Abbiamo poco tempo, ragazzi. Nell'ascensore vedi che c'è un touchscreen, un pannello touchscreen sul muro. Sì. Che mostra un palmo. Ok. Aia. Ci metto il palmo con l'anello. Ok. Vedi che si illuminano svariati livelli, 195, 196, 97, 98, 99, 200, 201. Ma ci sono scritte? Ci sono scritte? Sì, vedi che si illuminano nel pannello dei numeri e sembra che sia la selezione delle possibili scelte. Cosa c'era? 195, 196 era ricerca e sviluppo, e quegli altri 197, 98, 99 cos'erano quei quattro piani? Non lo sappiamo, erano segreti, no? Segreti? Mi piacciono segreti. 190, boh, 197, 98... Io andrei proprio su questi piani. Sì, vai, 198. Vado a cercare ricerca e sviluppo. 198. Ok. Proprio? No, così a caso, perché tipo sono 197, 198 e 199, mi sa, giusto quei piani strani. Abbiamo visto le scale, comunque, a parte gli ascensori, c'erano anche delle scale, o solo ascensori? C'erano anche delle porte, non sapete cosa c'era dietro, cosa c'erano dietro le porte. Ok, vedete l'ascensore che sale nei piani e vedete la porta che si apre e attraverso la porta vedete e vediamo la settimana prossima.